titolo di questo incontro di questa sera parla del futuro dei giovani, del futuro dei figli, come una cosa che in qualche modo, così sembra dal titolo, sta un po' tutta nelle mani dei genitori. E quindi come di una responsabilità che competa ai genitori, la responsabilità nel futuro per i propri figli. È un titolo che io avrei, come dire, sfumato in un modo un po' diverso, e perlomeno sottolineando l'aspetto di corresponsabilità che per il futuro dei figli c'è tra i figli stessi e i genitori. Ed è un po' da questa dinamica che mi sembra importante si debba e si possa ripartire. In che misura il primo compito dei genitori è rendere i figli protagonisti del loro futuro, sapendo in un momento e in un modo concreto riuscire a stare, per dire, un passo indietro. Ma che cosa bisogna fare per correre e per far correre ai figli il rischio del loro futuro? Cosa bisogna fare perché effettivamente questa sensazione così ben descritta da questo ragazzo possa non rappresentare quello che drammaticamente è invece l'equivalente di questa sorta di società liquida, no? Nella quale siamo immersi, ma liquida anche perché in realtà i punti di riferimento ci scorrono via tra le mani con una grande facilità, con una grande velocità, scorrono via tra le nostre mani, ma scorrono via soprattutto tra le mani dei ragazzi. Perché? E questa è la domanda più importante che ognuno di noi deve porre a se stesso come genitori. Non c'è dubbio che i genitori, facciamo un piccolo operazione di matematica, per un figlio che oggi abbia 15 anni, tenendo conto di alcun equivalente, è possibile che suo padre ne abbia 50. Mi riferisco a un figlio nato a un papà di 35 anni. Un papà che oggi abbia 50 anni, facendo qui se volete una rapida operazione, è un papà che è espressione viva, concreta, di quel momento di particolare dinamismo per tutta la nostra società che è stata la fine degli anni 60. Non potremo capire lo smarrimento dei ragazzi di oggi, attenzione, e non potremmo capire il paradosso assoluto che quei padri che sono nati in quegli anni e che quindi non sono stati i veri protagonisti di quegli anni, perché se immaginiamo un papà che si è nato alla fine degli anni 60, non è stato il protagonista di quella rivoluzione, è stato in qualche modo il figlio di chi quella rivoluzione l'aveva immaginata, pensata, con un capovolgimento totale di categorie che erano quelle che la tradizione immediata, potremmo dire la tradizione del subito dopoguerra, aveva consegnato a chi era nato, anche in questo caso, durante i primi anni 40. Perché dico questa cosa? Perché la storia non è soltanto un'esercitazione libresca. E noi non capiremo il disagio dei ragazzi di oggi se non ci collochiamo nell'arco di quello che chiamiamo un vero e proprio patto intergenerazionale. Un patto intergenerazionale che in questo caso mostra dei segni di fragilità che impegnano tutti noi ad un'analisi serena, ma non per questo meno severa. Perché soltanto se recuperiamo alcune categorie di allora potremmo intervenire oggi su un determinato tema. Stamattina, sfogliando in aereo il foglio, ho trovato in seconda pagina una sorta di recensione di un libro che ha richiamato la mia attenzione perché è scritto da un amico. Questo amico è Antonio Polito, forse qualcuno di voi lo conosce. Antonio Polito è stato il fondatore, diciamo, del giornale Il Riformista. È una persona che ha vissuto sulla sua pelle una contestazione positiva, concreta, che ha tentato di offrire delle soluzioni alternative che in qualche modo, devo dire onestamente, quando parlo con lui mi rendo conto che lui contempla la sua esistenza in questo momento, in questa fase, con uno smarrimento complessivo che lo lascia anche abbastanza sgomento. Tenete presente che Antonio Polito, adesso voi lo leggete in questo periodo, fa l'editorialista del Corriere della Sera, quindi è il luogo dove voi lo incontrate, no? Ma certamente la sua storia personale, la sua esperienza, ne esprimono in questo momento tutto lo sgomento per come le cose stanno andando in maniera totalmente diversa da quello che avrebbe potuto prevedere. In questo libro lui pone una domanda, no, ai padri. Lui ha avuto due gemelli mentre nella legislatura precedente, mentre eravamo colleghi al Senato, quindi due gemelli piccoli, due bambini piccoli. Quindi, come dire, è una vocazione tardiva, se mi permettete, nella sua paternità. Quindi, come succede spesso in questi casi, è anche una persona che si interroga molto profondamente sul senso delle sue scelte, no, su un itinerario che lui ha fatto. E lui si chiede in questo libro: papà, perché non litighi più con tuo figlio? È un po' quasi un titolo provocatorio. E in pratica ciò che lui arriva a sostenere è che noi, i genitori, oggi non litigano più con i figli per la semplice ragione che hanno tirato i remi in barca, che hanno in qualche modo perso la possibilità di fare una proposta di valori, di fare una proposta di stili di vita che necessariamente, da che mondo è mondo, confligge con le scelte di un figlio. Anzi, la sua tesi è che guai se non confligge, perché è proprio in questa conflittualità naturale e fisiologica, si stabilisce a un certo punto, che il ragazzo costruisce l'itinerario forte e profondo del suo carattere. In sostanza lui viene a dire che nel momento in cui i padri diventano, ed è l'espressione che lui utilizza, fratelli dei propri figli, e quindi rinunciano all'esercizio della loro paternità, che significa anche rinunciare all'esercizio di chi prospetta un quadro di valori, sapendo, insisto, che questi valori non solo possono essere contestati, ma guai se in quel momento delicatissimo della transizione non sono contestati. Quindi il vero tema è la paura della contestazione del padre contestatore, non so se mi perdonate il bisticcio di parole. Cioè, come se dopo aver speso una vita in una determinata generazione a contestare un sistema, avesse talmente bruciato e consumato tutte le proprie energie di testimonianza morale, quindi di critica del sistema. In questo momento io prescindo da una serie di su cui poi se volete torniamo, non sto dicendo che quel sistema di valori sia necessariamente quello che noi dobbiamo assumere. Sono molte le provocazioni, chiamiamole così, del 68 che io non mi sentirei di assumere, ma una cosa è certa, che in quel momento abbiamo assistito alla prima operazione di rottamazione macroscopica di un sistema di interlocutori, di educatori. Ed in quella sorta di rottamazione sono state bruciate infinite energie, ma proprio sono state, come dire, immerse in un bagno, appunto una liquidità di punti di riferimento che hanno lasciato talmente sgomente le persone che a questo punto hanno sostituito un'ipotesi che poteva essere un'ipotesi conflittivo-competitiva, ma che comunque era un'ipotesi che restituiva alle persone il protagonismo della propria vita, hanno sostituito questa sorta di, insisto, liquidità collaborativa che però sfuma e cancella totalmente le differenze per la paura che il conflitto generi quel disagio, quel dolore, quella sofferenza di cui si è state in parte soggetto e in parte oggetto. Cosa conclude questo libro? Conclude sostanzialmente una cosa, che non c'è educazione senza a un certo punto naturale contrasto. E da questo contrasto, quindi è da un confronto che può assumere anche aspetti, insisto, che possono provocare dolore e sofferenza, ma in questo conflitto nasce e come dire, viene fuori la nuova generazione con la capacità di aver messo in gioco carattere, spirito critico, capacità di scelte, capacità di assunzione di responsabilità e quindi protagonismo della propria vita. Noi in realtà abbiamo scippato a questa generazione il senso della forza della loro identità. Abbiamo cercato di rispondere a un disagio sperimentale mettendo sul piatto della bilancia tutto ciò che potevamo mettere. Abbiamo messo mano a tutto ciò che avevamo a disposizione per offrire a questi ragazzi non solo, attenzione, beni materiali, risorse materiali, perché anche sono stati i figli di un momento storico in cui circolava un maggiore benessere nel nostro ambiente, nella nostra cultura, nella nostra civiltà, ma soprattutto gli abbiamo lasciato credere che tutti questi beni fossero sempre e comunque accessibili, che non si dovesse fare altro che allungare la mano per afferrarli.